C'è qualcuno su 10? Sì, chi sei? Sì, ciao amico, ben sentito. Santiago 9 sei qua, diciamo devi un po' migliorare la radio, non è fortissima, comunque ti ascolto bene, sarebbe meglio averla un po' più forte. Se ti metti un bel microfono da tavolo, anche uno di tipo così MB+4, MB+5, dai, non costano eccessivamente, si trovano a prezzi ragionevoli e vanno più che bene. Sì, sì, vabbè, sono amplificati pure. Poi se magari riesci a migliorare qualcosa come potenza, così ti ascoltano anche gli altri, magari quelli che sono un po' in difficoltà. Bene, bene, sono contento. Io vabbè, ti ho sempre ascoltato, non dico sempre fortissimo, ma da 7 in su ti ho sempre ascoltato, però qualcuno qua di Sassari aveva difficoltà, magari quelli delle zone basse, perché Alghero io sono abbastanza aperto, quegli altri che sono giù nella parte bassa di Sassari è un po' più complicato. Comunque, piano piano le cose si fanno tutte. Riuscivo ad ascoltare anche Claudio da Muros, cavolo, quello è un po' nascosto per Alghero. Vabbè, dimmi classi. Hai trovato quello spettacolo? Sì, sì, sì, grazie, va benissimo, dai, c'era il capo buono, tra l'altro quello che avevo fatto io, quello che sono andato io era perfetto, ma è possibile che non funzioni, ho preso il tester per vedere la continuità, ed era la vecchia saldatura del vecchio cavo, ho dovuto tagliare, è stato bene, va bene anche qua, comunque ti ringrazio, va benissimo. No, quello è quello buono, qualche spezzone ce l'ho sempre, di quello lì capito, però quello lì è quello buono, il migliore che c'è, se l'hai vista la carta quanto è grossa. Va bene, ciao anche a Mirko, dai, io sto facendo cosa, sono entrato solo a dirti questo che stamattina non ti ho trovato. Ci sentiamo alle prossime, buona serata a tutti, ciao. Ciao Cla, quando vuoi già sai dove trovarmi. Ok, vai Mirko per Claudio. Grazie, grazie a voi, dai, ce l'ho a fare, ci sentiamo, ciao ciao, vai Roberto. Questo, scusa, prima di chiudere, il 43 nuovo o l'altro tuo? Questo è l'altro, ok, il numero 2. Ecco, una bomba anche questa, c'è benissimo. Sì, sì, sì, sì, va bene, va bene. Linea di massima va bene, dai. Io già lo sai, c'è bisogno di fare molti discorsi. Ok, ottimo per la truppa, dai, vi saluto, ciao a tutti, buona serata. E okay, ciao ciao Cla. Ok, di nuovo a te Mirko, vediamo un pochettino. Come ti arrivate all'Alghero con l'antenna sistemata? Sì, sai che ti attacco lo Iaesio che ho trovato il microfono. Eia. Quindi ha migliorato anche la ricezione, cioè mi ascolti abbastanza bene. Guarda Roberto, questo è il 757 col microfono normale, come va? Bello forte, non è chiarissima come l'altro, però la radio è bella potente. Vabbè, questo è il microfono normale, sembra un palmato, così va bene. No, no, è forte, prova a lontanarti un pochettino, non te l'altro può attaccare la bocca. Guarda, così sono a 2 palmi dal microfono normale. Perfetto, così è perfetta la modulazione. Ottimo per la truppa, anche da te Mirko, sto usando uno Iaesio 757 col microfono normale, come va? Va bene, l'importante è che vada bene, ho trovato un microfono, Roberto, non ho fatto le connessioni, vi dicevo sei che sono con me handicappato e quindi adesso abbiamo anche questo in aria, ok? Dai, vi saluto, grazie Robby, ti ripasso il cambio e ci sentiamo un altro momento, ciao ciao a tutti. Ciao di nuovo Cla. Mirko, sta dicendo, quindi ho migliorato anche la ricezione, cioè mi ascolti più forte di prima? Va bene, dai, ok, vabbè, per dire sono abbastanza favorevole. Dammi 5 minuti un attimino che mi allontano e poi se ci sei ancora riprendo. Scusami un attimo Mirko. Rieccomi Mirko, ti sei ancora? Che avanti che vuole entrare qua? Attenzione 10, c'è arrivato qualcuno? Chi sei? Non ho capito, sei tutto distorto. Sei fuori frequenza. Aspetta che provo a centrarti, scusa un attimo. Prova a parlare. Prova. Sì, ma chi sei Claudio? Ma sei spostato, sì, 27.072, sei canale alfa. Sei spostato di 4 kg. Ehi, avevo 27.075. Me ne sono accorto già, buonasera. Chi sei? Antonio sono. Chi sei? Antonio. Anche tu spostato sei, Antonio. Mi senti? Sì, adesso sì che c'è tutti i dati spostati, adesso sei a posto. No, perché io ho visto che c'era qualcuno nel canale e sono andato lì a curiosare, capito? Orecchio di porco, sai che c'è Claudio da Muros. Avanti Claudio, se mi ascolti, 1, 2, 3, prova radio, prova a centrarmi, 27.075, questo è il canale 10, in perfetta telefonia da Sassari, canale 10, sei tutto spostato di 4 kHz, prova, non so se cercare per regolare anche in trasmissione il tuo, niente. Sembra lo stesso, sì, ti sei spostato. Sembri in FM Claudio, non so se tu a me mi ascolti bene, confermi, mi ascolti bene? o mi senti spostato? Claudio, stavo parlando, Roberto. Sì, sono Claudio, se mi ascolti vai al canale 11 a vedere se magari c'è qualche quarto che sta andando male. Andiamo al canale 11. Copy Visa Station. Che cazzation. Oh, Claudio, ci sei? Ah, c'è qualche problema lui. Allora, ritorniamo su 10 che c'era anche Mirko da Alghero. Ritorniamo tutti e due, tutti e tre da coso. Anto, anche tu. Io già ci sono su 10 già. Eia, vediamo se Mirko c'è ancora. Avanti Mirko, se ci sei batti un colpo. Sì, allora c'è Antonio che te lo rilancia adesso e vediamo Antonio se ti ascolta meglio perché dice che ha migliorato come impostazione e poi c'è Claudio Ramuro che purtroppo sta uscendo fuori frequenza. Avanti tu Antonio per Mirko. Papa, salutare Mirko, mi senti? Cappa, dai, meno male, dai. Anche da me è migliorato un pochino, Un consiglio, fa un lavoro come si deve, una volta per tutte e basta. E non la tocchi più come ho fatto io l'ho piazzata, non l'ho toccata più e funziona sempre bene. Vuole fatto un lavoro come si deve, vuole fatto un lavoro come si deve, perché non è che puoi stare sempre scendendo, facendo, no? L'antenna deve essere piazzata una volta per tutte e basta. Poi se il tempo succede qualcosa, allora è diversa la storia, però io l'ho ancorata bene. E poi, vabbè che la mia è leggera, è sempre lì, ha sbattuto vento o sul vento, è sempre lì. Grazie a Dio, dice che mi docco. Eia. Allora vediamo un pochettino se Claudio D'Amuroso ha sistemato. Attenzione Claudio, se copri qua. Un po' meglio, vai Claudio, quello è brutta la modulazione. Sul 10 però sei spostato di 2 kg, se sei 27,077, prima invece eri 4 sotto, 4 kg sotto. Con l'aria vuole sistemata, magari con un carico fittizio, un frequenzimetro allineata, non toccare niente, lascia stare, se c'è il rischio che fai danno. Io mi sono spostato per ascoltarti, dimmi se mi ascolti bene o per così vediamo se ricezione va bene con la radio. Centro io giusto a canale 10 perché ero spostato per sentirti bene. Ok, mi sembra che è stato anche Luca, lo facciamo venire avanti. Luca, tu sei? Ci può essere. Inconfondibile, ben sentito anche a te, c'è Mirko D'Alghero, vediamo se lo ascolti che ha migliorato un po' la postazione. Avanti Mirko per Luca. Sì, buonasera, vabbè se ci sono un po' i vatti qua, eh. Io ti ascolto un po' basso, ma dipende da me, dipende da me. Comunque io ti ascolto, dai, avanti, riprendi. Kappa, Fabio e Luca, buonasera. E Antu, qui siamo appena rientrati, sono a casa, la mamma. Poi la Maria non ci sono andato. Come mai? Una vegana. Poi stavo facendo tante cose, commissioni, poi non c'era la destra, ma non stava bene, ma ormai c'è ripresa, dai, tutto a posto. Vabbè, dai, piano piano. E cosa vuoi fare? Andiamo avanti di nuovo Mirko, avanti Mirko di nuovo a te. Sì, era un po' spostato un apparato valvolare di vecchia generazione, magari c'è qualche trimerino magari da sistemare, dai. Ma penso che già riescano a cavarne il piede, dai. Sono abbastanza capaci il padre, si diverte e riuscirà a sistemarlo come ha fatto in altre. Luca, mi sei a sorprendere, una bomba sta arrivando tu. Io? Cosa devo fare? Abbassare, la abbasso un po', va bene così. No, va benissimo, non sto dicendo niente rispetto agli altri, a Mirko, perché ho dovuto alzare il microfono, il microfono, il volume per sentire bene e forte a Mirko. Segnale è 9, però rispetto a voi la radio è a metà. Vabbè, che stai andando forte, in confronto a lui, cosa c'entra? Qua Mirko mi arriva bassissimo, segnale 1 mi sta arrivando. Ma tanto dipende da me, dipende anche dalla zona, capito? Però se riesco a tirarlo fuori, dai, non è un problema. È buono, ma è la versione QRM basso così che ascolterei anche l'Africa. Qua il QRM minimo è 6, minimo minimo, certe volte arriva anche a 7, per cui i segnali devono superare il QRM qua per arrivare, ma lui diciamo, anche lui è abbastanza aperto, mi arriva a 9, la radio è 5, però rispetto a voi è molto più bassa, c'ha un microfono normale, metto, ma probabilmente adesso ne monta qualcuno di quelli che c'ha ne ha una decina, mi sta dicendo, amplificati ne ha 3 o 4, vediamo un pochettino, che microfono pure c'hai amplificati Mirko, cerca di farlo quanto prima così anche quelli che sono un po' in difficoltà ti sentono molto più forte, almeno di radio riesce a passare. Ok, Antonio, alza il mic. Capo, no, qua è Santiago 3, l'amico d'Alghero, non so come gli arrivo io, però qua è Santiago 3. Come ti arriva Antonio, Mirko? Capo, lui mi arriva 3 qualcosa, mi arriva quasi 4, dai. Vabbè, tu sei giù, non sei affettante, è già troppo che riesci a sentirlo, per cui vuol dire che stai andando più che bene come antenna. Ok, signore, io devo lasciare che vado a mangiarmi qualcosa che ho un po' di fame e poi mi guardo un po' di partita sperando che si riesca a vincere con queste squadrette, dai. Ciao Luca, ciao Antonio, ciao Mirko e tutti gli eventuali amici qua sul canale 10. Io faccio corretti, magari dopo se c'è qualcuno vediamo un po'. Ciao ciao, di nuovo un salutone a tutti. Ciao ciao Roberto, ciao recenti agente ritardo. Tante di ciò, pussa via. Stamane c'è luce. Ciao ciao di nuovo, ciao. Ciao, non lo so, non lo so. Va bene, ciao ciao. Avanti Luca. Figlia, ciao Roberto. Mi faccio preso una busta e ho una mal di testa. Capa. Arrimani Lu. C'era appena appena Sarienti, già a Gugno c'era la modina. Sì. Che c'ha tanta barriduccia. Chi c'ha tanta barriduccia? Che è un po' garido strana. C'era Sacchendi, c'era appena appena e cosa gli ha chiuso la porta? Chi cosa? La mamma di Costantino. Ah, beh. Ha preso mio, quando ha già compreso era più dentro di Lazzare di Lazzare e non comparava mai, ora si sono incazzati. Ma che è che c'è mutina, buca, Non lo so, una delle sorelle, Monica può essere. E mi dopo le Lazzare di Lazzare? Allora, c'era partita da Lazzare, non quella non consumava e quelli là si sono rotti di scatole, poi non lo so se c'è qualche altra cosa pure. E se l'ha rimandata? Sì, e allora con me si chiama Maria Teresa che da pure fa vedere male quando gli rompe le scatole. Praticamente gli ha parlato male, capito? Gli ha detto che era rompendo le balle. Ma chi è quella che canta? È quella? No. chi c'è che cammina tutta canta di traverso che va di denti in fura? Ah, ho capito. Che con Roberto, con Roberto. Non so come si chiama il compagno, boh. Sì, Roberto. Cappa. Gli hanno fatto fare chita, se permetti, chita in casa soglia, ditelo che vuoi pure, eh. Cioè, quando uno rompe le scatole, rompe le scatole. Non va bene questa storia. Sì, ma niente allucinante. Allucinante, lascia perdere. Sono sempre... Se no chi tu, chi tu ciccione, la statira ti ho detto cosa, chi tu grosso, chi tu che va... Chi tu faccio, che va la banca, un metro un quaccio, che ti ha sempre, mezzo mi accotto, l'altro giorno ti ho detto cosa, ti ho detto vasco, mica io la roba la pago i nomi, oh. Cioè, punendi, vendi, ha detto, ma cosa stai facendo? Vabbè, ci vuoi fare, niente, andiamo a crocco, qua, ci vuoi fare, via. Un casino, un casino. Cappa, ma stai scherzando lui, cioè, l'altro giorno ti scusai, ma se prendere un bicchiere per te, cazzo, ma pure no che ti dice, cioè, io sono andato a travagliarmi pure, cazzo, la roba me la con... Cioè, un conto è, cazzo, la metti tu, la metto io, cioè, non dico niente, per carità. Mi fa piacere, ma conto che vieni in chibi, ti posi nel tavolo. Cazzo, è come se già puni birra di lastri, ma cosa si vende? È una pelle bella. Proprio cimella, sì. Beh, sono andato a salutarvi, ciao Anto, ciao anche a Luca e ciao a chi è in ascolto. Pronto a cenare, ciao. Ciao, sentiamo Cla. Allora adesso forte ti arrivo a casa, oh. O lui Claudio, dove è adesso? Sì, anche giù arriva forte. Anche da lì già, anche qua arriva abbastanza forte, non come carbonate, che qua carbonate arriva un bel forte, però andava. Sono contento. No, vacca, fa vedere. Farò vedere, questa è l'antenna quella nuova, la 780. Allora, come sta arrivando? Segnali e a picchi di arriviano è modulato. Dove sei giù? Da mamma. E come mai? Più basso? Stava attuando. Capo, no, qua arrivano 9:20, Claudio, radio 5. Vabbè, poi tu sei sul 3, Anto. No, lo so che l'ha posto. Non lo so, qua. Qua mi sta segnando così, non ti posso dire che arrivi 9:30, che non arrivi. Non lo so, cioè tu arrivi così. No, tu sei 9:10, un po' più basso di come arrivavi prima, però beh, mi sento tutti. Gappa, no, Antonio è più forte di te, o lui, arriva più forte. Tu sei 9:10, Antonio è 9:15, compichi a 9:20. Claro, ma io da tipo che fa, sì, ma poi dipende anche dalla posizione, capito? Dipende anche dalla posizione, vabbè, se senti ascoltarci, poi non c'è problema. Sì, ma infatti, oramai, un po' come la frutta a me. Qua sono e qua rimando, non è che sto facendo la radio, l'importante è ci sentiamo. Ah, l'Arghero arrivo fortissimo a tutte le altre parti, come prima, come sempre. Mi sento tutti, l'importante è quello, che possiamo scambiare i due chiacchiere, poi qualora il termine frutti inutile. E prendi altro che vado a cenare, che poi c'è la nazionale, dai, c'è l'Italia, mi guardo la partita. Ciao! Ciao, ci sentiamo. No, vabbè, era solo per fare, non è niente di particolare, per fare delle prove, era per capire un po' le posizioni, tutte queste cose che noi sappiamo già. Ok, vai, non ti preoccupare. Sì, Antonio, le prove vanno sempre fatte. Tu così, io sono 4 km da Sassari, e Sassari non lo vedo, tu sei a un tiro di schioppo da Luca, quindi è chiaro che mi sentite molto molto meglio come tutti gli altri. D'altronde, a me chi mi arriva fortissimo è Fabrizio, che mi arriva oltre 9:30, Roberto Quadrato, Antonello Alessio, che sono le posizioni alte, hai capito, molto aperti. E poi Claudio D'Amuros, Claudio mi sfascia lo smitter, Claudio 9:40, micidiale, caspita. Va bene, ciao di nuovo, Carriere, riprendi, non riprendo più, ciao. Capa. Sì, ciao. Ci sentiamo. Mi sta passando mal di testa, c'è un mal di testa allucinante, va, per carità. testa, è quello mal di gambo, ma di denti è brutto, ma mal di testa non scherza. Lo so, purtroppo è così. Cazzo, a me è uno dei più forti di tutti, il cavolo, è proprio Fabrizio, Qua non sa quanto mi arriva a me. 9,50 mi arriva. Cazzo, è una cosa paurosa, Occhi di gatto, qua è il più forte, uno dei più forti di tutti. Poi c'è qua la stazione, vabbè, è vicino. Noi ne arriva 9,60. E io quanto ti arrivo io, bello bene. Poi tanto su segnale tu e Natalino, Siete sul 3 tutti e due. 9,50, radio 5. Sì, ma io sto usando 2,5 però. Già lo sai che se aumento ti brucio l'apparecchio, hai capito? O ti telefono alle 2 stanotte, così non dormi. Hai capito, bello bene. O ti porto un vicinoci di fora. Adesso ti faccio parlare con Muro e ti telefono alle 2 stanotte, così impari. Oh, ci siamo dimenticati di Mirko Valghero. Mirko, ci sei ancora? Capo, è entrato anche Natalino, Oh, che testa che abbiamo, che ho. Capo, mi sono proprio dimenticato, ti chiedo scusa. Capo. Natalino. Hai finito? Questo è quel Luca Pugioni, mi. Ma poi è esitito veramente questo qua? Io lo dico, lo dicevo io, per non dire lei il cognome esatto. Roba macchica. Questo Luca Pugioni non lo faccio dormire stanotte, hai capito, bello bene? Hai finito? Ce l'ho, ne metti 3. Sì, sugar. sentire te quelle cose, cazzo, c'è una scassaccia dalle risate. Io ero un ragazzino, ero. Cazzo, come. Ciao, come ti chiami? Buonasera a tutti. Ciao Cri. Ciao Cri. Lasciate far con in pace, per favore. Per favore. Basta guardare come si capisce niente qui. Lasciate far con in pace. Bene, davvero. Come se non tu, vera. Ma un po' che uscito la giù, figurati. Non ti sei perso nulla, cazzo. Una di... Io mi chiamavo sempre a botte, ma lo lascio, tutti che si mi dizia. La giù di massona. Ma come ti permetti di mettere queste cose? Non ho proprio il tuo bocco, non ha funzionato, niente, non dormi, nulla, zero completamente. Ti raccomando, non mi parlare male, voi diciamo che la tua è di... Ma poi non mica i buoni umani in alto, se vuoi, ma... Poi tu ne hai buttato giù l'antenna. Cazzo, entra a casa, entra a letto, gli ammela il tuo bocco, ma lo lasci. Stava smaccando su caranda. Sì, ma a grobo lo fazia. Però chi si guarda proprio grogu è coso, tiro drago. Ma dove sei qui? Io sono a Pugliano. Vabbè. Sono a Pugliano. Ah, stai andando forte. Ma lei mi sta ascoltando, vabbè, sì. Ma cosa sei giù? No, la radio, mi sta ascoltando bene, sì. Quindi sono 5 pulita a bomba. Grazie. Andava, ti stavano fortissimo lo stesso, sì, quasi 9.30. Beh, sono diciamo, a casa tua sono in aria sono un chilometro. Da Pisa, sei idem. Ma a me sei un po' più spostato. Ehi. Sì, ho. Allora. Ma anche a te arriva bene, Cristian. No, anche tu passaggio. A me stai dicendo. Che cazzo, spaccando lo smith a me, tutti e due. Ma tu, adesso dicevo, ti ho detto, se Cristian ti sta arrivando bene. No, è oscillante, tra 9.10 e 9.20, roba così, vabbè io c'ho più smitta, re. E già va bene, dai, rimane contento del fuoco, dai. Capa, vabbè, dipende dove ti trovi, dai. Cioè, lo sai che QSB ce n'è tanto in macchina. Sono parcheggiato, non c'è il CRCS, non c'è il freno di tiro. Capa, dai, va bene, dai. Già va bene. Ma poi sei a casa d'Antonio, no? Sì, poi la bravo. CRCS stanno giocando a fare le bambine pure. Ah, signor Radio, che microfono sta usando? Un Proxel. Signor Radio. Dimmi 1000. Non so, la verità mi ha avuto mio fratello. Ah, già, va bene, già. Ce l'ho avuto anch'io quello. E ce l'ho. C'è la magnetica, Cri. Eia, magnetica su base Sirio, antenna Lemo da 1,5 metri. Beh, comunque, ogni tanto te lo piatti, dai, giusto per farti due chiacchiere. Tu l'hai visto ieri, non c'è antenna però. Sì, ci siamo visti ieri, sì. Eia, e altro non ne ho bevuto, io macchina non l'ho messo. A parte non è manco la mia, ma poi non ha fuggito in macchina, adesso ce l'ho a casa. No, io ce l'ho in macchina perché a casa ci sta molto a fuoco ultimamente, fidati. Vabbè, tu ci stai a casa, a poco ci sto molto, cioè ci sto di più a casa. Quando il tempo è tipo inverno, cioè l'estate ci sto poco, quasi niente, ma ci d'inverno di più. Ma guarda, io sono stato inverno, vengo sempre verso le 9, 9 e mezza a casa, ma di solito, se no che 8 e mezza, ma di solito non sono 9 e mezza, rientro io, ma... Sì, no, a Manzanini. Se mezzo la mattina sono sveglio io, ciccio. Stavo dicendo, ma da cosa non ci sei più andato? No, via con un attimo. A te da luce non ci sei più sceso? Sì, c'era ieri sera. Da quella persona là sto parlando. No, non l'ho visto. No, non mi hai capito. È vicino dove abitavo io prima. Eia, ma era Pasquale della Roca, Pasqualino, che era procurato dei bulloni per la macchina mia. Sabato me lo sono presi, poi sono stata una chiacchierata e niente di che. Capa, già va bene, là. No, pensavo che non stai più andando. No, ci vado sempre da lui, cazzo, sono un amico di infanzia. Ah, già va bene, dai. Ma se sei faccia, no, lui è molto più grande. Ma lui ci avrà una decina di anni in più di me forse. Caspita. Buoni buoni. Che è avanti? Oh, è entrato qualcuno, ciu. Se mi vuoi segnare, guarda il tuo, figlio, guarda il tuo. Boh, non so. Vabbè, fammi un buono l'altro giorno, era. Sì, buono. Scappa. No, già era buono, già. Visto, già, mi sono mangiato bene e basta la vita, per spendere. Sì. No, ma il solito io lo prendo da Marcellino, lo prendo da questo gastro mania, come si chiama, detto, in piazza Azzuni. E invece io lo prendo giù da Torre alla rotonda. Un po' di volte, quando sono giù, un po' di volte l'ho preso lì. Io sempre lo prendo lì, scendo a forza. Ma che cosa, panino? Eia. Mirko, ci sei? Mirko, ci sei? Riprendi Mirko. Come ad Alghero, ce n'è gente ancora in giro. Io scendo spesso, dai, come una passeggiata. Lì, zona Cannoni, dai. Tutto quella zona lì, poi dove ci sono le barche. Dove passa il trenino, dai. Quel trenino che porta i bambini. E ogni tanto ci scendo, va. L'altra volta siamo scesi, quando è? Aspetta, fammi ricordare. Quando siamo scesi, boh, se non lo ricordo. Poi di mesi fa. C'è ancora il turismo, là. Avanti a tu. Lì già. Ancora molli anche d'inverno qualcosina già va, dai, solo che magari un po' di meno. Adesso mangiamo la pesca, buona, E andiamo a begliardo, va su. No, stendali. No, la pesca lì è la Coop. Per me è roba nostra, ma sono buone, sono le tarine, quelle dolci. Ah, va bene. Allora non so cosa è successo, voglio boicottare il Conad, non so come cosa. Ma perché? Non so ne so. Perché dice... C'era scritto così, senza stipendio, non so cosa cavolo. Tutti i casini che stanno succedendo, paghi il suo coso, paghi il suo green pass. Fate il green pass, così lavorate, fatevelo. Non ho problemi. No, io ce l'ho, io ce l'ho anche nel telefono. Io neanche, io ce l'ho il telefono in macchina. Ma, diciamo che il 20% non si vuole vaccinare. Guarda, io c'ho anche la macchina con green pass pure. No, anche la macchina è vaccinata. Sì, vaccinata. La moglie di questo che è assolutamente contraria, ma la moglie di quello che ti stavo parlando adesso, anche lui è contrario. Però cavolo, tu non mi puoi dire che noi di ETIA siamo contagiosi, stai sbagliando, sai. Cioè, ma ti pare che io mi faccio un coso ma contagiate? Dai, tutte quelle cavolate che leggono nei social che poi, a carità. Ma sentite lei quello a Firenze, quello di 17 anni, non usa il cervello con Pfizer. Cosa è successo? A Firenze, da l'altro di 17 anni, non usa il cervello, non c'è di Pfizer. No, aspetta, no. Quella storia là, cioè che ci dovevi subizzino, vabbè, quella era la madre, prima chi c'è una cazzata enorme, prima si è fatto un vaccino e le è giunta una cosa del genere, poi la convincono e ne fa un'altra, ne fa una cosa, cioè uno non ti basta, magari c'è bisogno di baluguro, tutte quelle cose fatte da TikTok, per carità. Però tutto, vabbè. Può succedere che il vaccino abbia dei collaterali, ma la trombosi al cervello proprio sfigata a mille. Ma è come tutte le cose, anche se tu prendi una medicina che non sai, tipo che sei allergico, può causarti questi problemi. Solo che va proprio, non comprendi a te niente, no? Non capisce niente, non capisce. Purtroppo è così. Allora io ho con un signore che lo stesso l'ha pigliato male, così gli ha preso. Da poi ve la ghita incosciente, chi dà incinta, cioè vai a fare il vaccino, cioè che sei incinta, lascialo stare da parte, prima non fai nascere la creatura, poi dopo vai ti vaccini. Esatto, riprendi Lucchino. Allora, non te la ritunisci uno, no, cazzo, polemiche pure su di quello, ma che cazzo, ma chi te l'ha detto di andare a fare queste cose? Chi te l'ha detto? Tu pensa prima a cosa, a far nascere il bambino il meglio possibile, poi ti puoi fare che vuoi. È un casino, è un casino. Dice la butto, ma la me, guarda, la metà di quello che scrivono sono tutti canti cazzate, insomma. E tra niente che non sa cosa più inventarsi. C'è un fischiello sotto a fondo, chi è? Che fischia avanti? Che fischia avanti? Avanti che fischia? Ma no? Piccolino lo sentivo io, basso basso. Sicuramente sotto di me, io già l'ho visto il segnale adesso. E tutte ne scrivono un poco di immaginate, quello e quell'altro. Ma pensate a fare le persone serie, va, che forse è meglio. Forse è meglio, vai. La vita, cioè molta pazienza della vita, ma molta vita. Ma se mi mangio un paio di fichi secchi, a chi piacciono, mi piacciono. Non è tanto. No, fracasi, secco no. I fichi non sono duri, mi sono freschi, cioè, fatti da poco, sono buonissimi, fatti da Padre di Maria. Già sono buonissimi, cioè, a chi piacciono, a me i secchi non più di tanto, non ne vado matto. Ma chi ci frecchi già me ne mangio. Ma tanto, questi fanno cagare di brutto, Io mangio freschi e anche secchi, perché poi c'ho a casa, da quattro anni di fichi a casa. Da voi paro, mi posso, una bella doccia, mi posso, a manco, sono tranquillo. Ma sei sicuro che viene Eva, che non viene Eva? Qua c'è. Qua la moto l'ho levata. Ah, farò io su, ma è buono la burizzare, c'è. Qua ci deve la guglia, quella cosa mattino. Ma qua ce l'ho, Qua la moto no. Non c'è, anche se mamma non c'è. Io qua ce l'ho a casa, fate una mandanza. Telefono. Ma la guglia me la posso lavare, dai. Allora, io qua ce l'ho, non ho problemi. Mi ha mandato di acqua a casa. Tu vai un botto, così è. Tu in campagna, ma è quello. Non ti sei mai fidanzato? No, un bel cugino, figurati. No, te l'ho chiesto, ma non ti sei fidanzato? Ero fidanzato, adesso non più. Vabbè. Adesso sul di bosco. Allora sei in giro. Faccio il cacciatore. Cappa. E anda, vai. Si ferma, preda niente. Cristian. Ecco, sta il telefono. Capo, io scendo giù che mi lavo. Ok, bene, lavate, dai. A mano di fischio, uscendo. Andiamo, andiamo, grazie. Che scoglia. Su con la scrava, ui, che scrava, ehi. Sono buoni i fischi. E i fischi, con i cacchi, dopo due o tre giorni. Adesso sono con l'India. No, chi sono i biateni? Ah, a me sì. No, a me fichi indiano, fichi freschi, fichi secchi, un bel. Tu pensa, manco i cosi mi piacciono, la... come si chiama? I datteri. No, io fichi, siamo a 4 anni a casa. E intanto se me ne mangio qualcuno, qualche chiletto però. A me gli facciamo un sacco lo stesso. Tu pensa che mio socio c'ha quelli neri, quelli bianchi. A me piacciono più quelli bianchi, che dentro rimangono bianchi, non rosa. Io quelli neri, li ho tipo i neri, quelli che sembrano la pera, tagliato tipo quello a tono normale, classico. E anche mai sono quelli di campagna, non hai idea. Tu pensa che ne ha fatto già 12 kg di questi secchi. Io già fa la svolta. Tu la devi far seccare, no? Al sole. E poi li mettere nel forno, che non piano a cucinarli, a farli asciugare un po', no? Sì. Antonio, vabbè, voglio un po' di giramenti. Sicuramente ho fatto giù a lavarsi la patatina. E allora? La patatona semmai. Ascolta, io l'acqua ce l'ho sempre a casa. Insomma, che ci sei battuto io. Lo metto in campagna, oggi l'ho morto. Beh, mi ha dato. Però io qua manca sempre, cavolo. Perché stiamo facendo dei lavori, stiamo spaccando tutte le strade. Poi fanno i raddoppi qua, mia gaggata. Dai, adesso vedo che si è ricaricato sul tetto di casa mia pure, dai, adesso ci provo, va. Che cosa tu? Ma che cosa qui? Mettiamo la tenda a casa mia. Ah, tu non lo dici. No, non posso sentire, ma sono un primo. E vabbè, ti darò una mano. Guarda, faccio prima da solo con lui, fidate. Ah, uscire. Lavoro sui tetti io. Vabbè, ma tararra ce la fai. Ce la faccio, fidati. Già ne ho amici ancora. Ah, già va bene, no? Già va bene. Antonio Bombolino. Oh, bene, ci sei? Non vero. Sto ancora lavando. Come va, sta ancora in giro qui? Mi sono annoiato a stare a casa, sto andando a stare a casa. Ah, ma tu, appena poco d'aria, dai. È un buio di fresco. Già ci vuole, già ha fatto caldo, mi. Ha fatto quelle due gocce di merda, di acqua, guarda, ancora più caldo. Però domani ha messo pioggia. Domani ha messo pioggia. Faccio quello di che devo... Allora la tennis, dai, ci vado dopo. Mamma mia, mamma, ci provo la di testa, mi è passato. Ti fermo al di capo, per